Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Gruppo Romani, da 50 anni la ceramica per tutte le esigenze in Italia e nel mondo. Di Adriano Palazzolo. Nella zona di Sassuolo si dice ancora che negli anni 60, ogni volta che due amici si incontravano al bar, nasceva un'azienda di ceramica. La storia di oggi inizia proprio in quegli anni, in un periodo in cui in tutta l'Emilia fioriscono smalterie e opifici. È il 1968 e a Casal Grande, in provincia di Reggio Emilia, Lamberto Romani decide di aprire una smalteria. Si chiama Serenissima. A spiegarci il perché di questo nome è il figlio del fondatore, Giorgio, oggi presidente del Gruppo Romani. L'azienda nasce dopo un periodo in cui il papà è stato socio in altre aziende, ha lavorato in altre aziende ceramiche, ha deciso di mettersi in proprio e così è nata Serenissima nel 1968. Il nome è un po' strano perché è stato frutto di un pensiero venuto durante una sera davanti alla televisione in cui il nome che si poteva scegliere era un po' in discussione e allora la mamma, vero capo del gruppo anche se non ha mai lavorato, guardando la televisione quel giorno venne inaugurata l'autostrada Milano-Venezia chiamata Serenissima, mia madre la guardò e disse: bellissimo il nome, richiama bellezza, serenità, gioia, e così è nato il nome Serenissima, che non ha niente a che vedere con la Repubblica di San Marco, però essendo un'azienda del distretto di ceramico. Lamberto Romani e la moglie Alba avviano così la produzione in un opificio ceramico. Qui, con impianti di smalteria e forni, dove sono impiegate circa 40 persone, viene lavorato un prodotto acquistato in precedenza e lo si prepara per la commercializzazione. La famiglia intanto si allarga con l'arrivo di due figli che entrano in azienda negli anni 90. Io mi sono laureato nell'86, mi sembra, ormai sono tanti anni che non ricordo bene l'anno, ma avevo iniziato a lavorare un po' prima, poi ho sempre fatto qualcosa in azienda, in tutti i settori dell'azienda, andavo anche proprio di manovalanza, perché durante la scuola andavo a guadagnare le prime mie 10.000 lire che mi forniva il papà per potermi gestire le mie classiche spese, quindi ho conosciuto l'azienda dall'interno, così come ha fatto mio fratello, che è più giovane di me di 5 anni, finito l'università è entrato. E, diciamo, gli anni 70-80 il papà è stato solo fino all'84-85, poi dall'85 al 90 siamo entrati io e mio fratello e abbiamo iniziato a condurre l'azienda insieme. L'arrivo dei figli Giorgio e Paolo nel management dell'azienda segna un nuovo corso. Serenissima, infatti, inizia una serie di investimenti e acquisizioni che la portano a crescere sul mercato e a diventare il Gruppo Romani. Nel 1992 inizia un periodo in cui l'azienda si evolve e inizia a crescere e iniziamo un processo di acquisizioni. La prima è CIR nel 1992, la seconda è Capri nell'anno 2000. Nell'anno 2002 viene inserito un marchio di prestigio che è Cerasarda. Cerasarda, azienda sarda, lo dice il nome stesso, che fu fondata dall'Aga Khan nel 1960 per fare tutte le sue ville nella Costa Smeralda, che allora pensò di non comprare più ceramica in giro, di farsi la ceramica. Poi, stanco dell'avventura sarda con tutto quello che è capitato un po' in generale, lui aveva tante cose, decise di vendere la maggior parte delle sue aziende. Noi comprammo il marchio Cerasarda, che tuttora è uno dei pochi marchi artigianali e di prestigio di quello che noi chiamiamo la ciliegina sulla torta, perché è il nostro marchio fashion all'interno del gruppo. Dopo l'acquisizione di Cerasarda si arriva al 2005, in cui viene acquisito il marchio Cercom, marchio di produzione di Gres Porcellanato Tecnico, per andare a completare quello che era un pochino il panorama di offerta del prodotto con dei marchi molto complementari. Quindi abbiamo Serenissima che produce pavimenti in Gres Porcellanato smaltato, CIR che produce piccoli formati speciali o cose un po' particolari sul mercato sempre in porcellanato, Cerasarda che è la ciliegina sulla torta e Cercom che produce il porcellanato tecnico, in modo che all'interno del gruppo abbiamo raccolto tutto quello che era il panorama produttivo ceramico in modo da poter offrire ai clienti la completezza un po' totale. L'azienda nel corso degli anni è cresciuta arrivando a un totale di 3 stabilimenti produttivi, 2 in Emilia-Romagna e 1 in Sardegna. Ma nonostante l'espansione non sono mancati momenti difficili. a cui si è riusciti a far fronte con una vera e propria spending review. Dei momenti difficili c'è stato qualche cosa nel 85, direi, 84, 85, 86, momenti un po' di crisi. Ricordo che ero appena entrato, lavoravo un pochino in azienda. Erano anni un po' difficili, ma poi le crisi di allora duravano 3 mesi, 6 mesi, niente a che vedere con quelle che stiamo passando in questi periodi. Poi nel periodo, diciamo, che l'azienda ha sempre avuto dei risultati buoni, il periodo forse più difficile è stato l'ultimo, diciamo negli anni 2011-2012, no, 2008-2009 per noi sono stati anni in cui abbiamo anticipato probabilmente un po' la crisi, sapendo, andandoci a preparare, andando a creare una task force proprio per evitare dei problemi. L'anno 2008 la ceramica non l'ha sentito come anno di crisi, o almeno pochi. L'abbiamo sentito nel 2009, però le avvisaglie ci avevano fatto preparare un pochino al peggio, cercando di fare una spending review, di prepararci a guardare proprio che cosa si poteva, dove si poteva risparmiare, dove non si poteva spendere o dove si poteva fare altre cose. Un esempio per tutti è, ci facevano, è molto banale, però rende l'idea di dove bisogna cominciare, dove bisogna andare. Noi facevamo le pulizie in azienda, le aziende esterne facevano le pulizie tutti i giorni, sapendo che arrivava questa crisi abbiamo deciso di farle un giorno sì, un giorno no. Passati 6 anni le pulizie vengono fatte un giorno sì, un giorno no, non abbiamo più buttato via soldi per fare quelle, così è successo. È un esempio banale, però che rende l'idea di come certi tipi di spending review vorrebbero fatti anche a livello governativo in altri momenti. L'ultimo fatturato del gruppo Romani è stato di 107 milioni di euro. L'export pesa per l'80% e comprende oltre 90 paesi. Un risultato raggiunto grazie agli insegnamenti del fondatore dell'azienda, Lamberto. Devo dire che il papà ci ha dato una grossa mano, perché come tutti gli imprenditori di Sassuolo, con conoscenza di un po' di francese, casomai niente inglese o viceversa, come poteva essere mio padre, già allora andavano in giro con le carte, con le valigette piene di piastrelle in giro, che ci facevano capire in tutti i modi. Quindi lui ha cominciato a girare in Europa. Ricordo che un anno andò addirittura in Australia a provare a vendere le piastrelle, vendette delle piastrelle, lui non sa una parola d'inglese, quindi il pionierismo era veramente alla base dei primi anni dell'export ceramico. Di lì poi si è creato un mondo, il papà ci ha sempre insegnato che l'Europa è il nostro mercato principale, quindi il nostro mercato ora, pur lavorando in tutto il mondo, esportiamo in 90 paesi nel mondo, però l'Europa è quello che la fa ancora da padrona. Germania, Francia in primis, oggi funziona molto bene anche il mercato degli Stati Uniti, che dopo i problemi avuti alla fine degli anni 2008, 2007, 2009 ha ripreso molto bene ed è diventato probabilmente singolarmente il primo, il secondo e a cavallo fra primo e secondo paese di esportazione. Però l'Europa la fa ancora padrone, perché il papà ha sempre detto: ricordatevi che il giardino di casa è l'Europa, il resto del mondo va bene, ma state in Europa perché questa è la casa. Oggi lavorano per il gruppo Romani 435 dipendenti, ma contando anche la rete degli agenti di commercio italiani e stranieri, si arriva a circa 600 persone. Il presidente Giorgio Romani, voce narrante di questa storia, e il fratello Paolo, che al momento è amministratore delegato del gruppo, hanno deciso di alternarsi nei rispettivi incarichi ogni 3 anni, seguendo una strada ben precisa, che passa per il rinnovamento. Negli ultimi anni abbiamo veramente rivoltato l'azienda con un calzino, abbiamo cambiato, perché vede, l'azienda familiare porta dei vantaggi da un punto di vista umano, ma porta anche dei limiti, perché bisogna rendersi conto che c'è chi è più bravo di te a fare i lavori. Quindi abbiamo iniziato una managerizzazione dell'azienda, cambiando direzione tecnica, cambiando direzione logistica, cambiando direzione di human resource, cambiando direzione marketing, e quindi adesso abbiamo delle ottime competenze, stiamo cercando di sviluppare l'azienda, siamo dopo i momenti un po' bui del 2013-2014. Siamo tornati a fare dei risultati ottimi nell'ultimo periodo e vogliamo continuare a crescere, perché l'obiettivo è di non fermarsi mai. È il motto di Romani Lamberto: non fermarsi mai. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.